canale 10, 1, 2, 3, prova radio. C'è nessuno? C'è nessuno per una prova 1, 2, 3, 4, 10? Attenzione, prova radio, canale 10. Attenzione, canale 10 per una prova. Attenzione, 10 per una prova. Nessuno sul 10 adesso, vero? Attenzione, 10 per una prova. Attenzione, 10 per una prova. C'è nessuno 10 per una prova? Sul tetto non ci posso salire, se no ne avrei messo poco di antenne. Io ne ho cambiato alcune, infatti. Sto sempre cambiando, alzando o posizionando. Ho lavorato un po' pieno. Sì, infatti. Ma purtroppo siamo messi male come far antenne qua. Perché non. Già è un miracolo che c'è quella su. E purtroppo altre antenne non ce n'è. In campagna già ne avevo già antenne, e a voi anche troppe. Oramai purtroppo si sente la crisi. E quindi più stremati come me possono averne tante. Purtroppo. Cazzo, già ne avevo poco di polli da un albero all'altro. Uno era su un palo addirittura, solo per loro, per i dipoli. C'ho un'antenna V, poi una X300 da un'altra parte, la Mantova 5 che se ne sta ridendo. 2 mesi ci aveva quando me ne sono andato quell'antenna, nuova era. Ma a me iniziano onestamente a pesare, perché sono veramente troppe. Anche perché a differenza degli altri, da me corrisponde un'antenna a una discesa, capito? Infatti, e tu c'hai anche le radio per poterle utilizzare, se tu non hai le antenne come fai a utilizzare quelle radio? A me purtroppo è andato a scemare quando sono sceso 3 volte lì e non ne ho cavato piedi, allora mi ha cominciato a stufarmi la cosa. Infatti qua non ho fatto nulla, ho messo solo l'antenna per la 27 blu. Purtroppo è così, faccio che fa. Io ogni tanto mi dimentico anche il numero di queste cose. Guarda, solo qua sulla capistudia ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, qua ne dovrei avere 5 proprio sotto la testa, dall'altra parte poi sulla soletta c'è questa che sto usando, che è la Gemmat, mentre sul traliccio principale ce ne sono altre 3, fate il conto. Se no, quando stavo lì in via Petrumica, prima di salire in campagna, sembrava, ne avevo più che i carabinieri. No, i carabinieri ne hanno una, perlomeno i carabinieri di stazione ne hanno una, e dalla caserma centrale, diciamo, di Sassari, ne hanno esattamente un 4-5. Al massimo, una anche bassa, un capitato da riserva, un verbe nautica. Io ne ho il triplo forse di quello che c'hanno loro, perché in tutto dovrebbe essere, credo, 12-13 antenne a chilometro così, di cui credo che siano 8 bitbanda e bande singole. E altre saranno 5, altre 5 per HF e compagnie, tutte a banda continua, perché c'è sotto anche un accordatore navale, le altre invece sono proprio tarate per tutte le bande, ma non c'è il tempo di usare un cavolo, anche perché ogni tanto adesso mi sono ricordato che devo fare una cosa, non c'è scattato, ma per carità, meglio niente a volte, guarda. Sì, vabbè, era per dire, no? Il tetto di quando ero lì in via Pietromica era pieno di antenne, se me le costruivo pure le antenne e ne avevo un sacco sopra il tetto. Lì è atterrato, quindi veniva bene a metterle. Attenzione, canale 10. Sei avanti su 10. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, zio Natalini. No, la radio non lo senti, l'amico entrato? Sì, l'amico di Porto Torres, già lo sento. Buonasera. È che ho dovuto aprire lo squelce, avevo lo squelce, non lo sentivo sulle prime. E allora, che si dice? Che si dice? Che non c'è mai nessuno qua. Cosa vuoi che si dica? Via. Non sta tentando nessuno. Molte volte non accendo neanche perché no. Ascoltare il QRM. Già avevo lo squelce pure, per non sentire il QRM. E non ti sentivo a te, capito? Come ti ha chiamato Gianfranco, allora ho tolto appena appena di squelce, ma roba di QRM, ciò. Buonasera Gianfranco, ben sentito per la prima volta, non c'è tanto. Ti riesco a tirare fuori molto, ma molto basso. Sì, perché sto uscendo con 1,5 watt, non arrivo neanche a 2 watt. Quindi è per quello che mi senti così basso. Ma tu sei in stazione fissa, sì? Come? Non ti ho capito. Ho detto, tu sei in stazione fissa? Sì, positivo, sono a casa. Confermi il Porto Torres, perché io per Porto Torres di norma sono abbastanza coperto. Non riesco a tirare fuori solo la radio, il segnale non mi muove neanche così. Lo so, evidentemente sei anche in una zona non troppo favorevole per Sassari. Riprendi Natali. Infatti, anche io sto uscendo bassino, forse mi sente basso, a me lo stesso. Lo stesso, Natalino, uguale, basso anche tu, però vai, almeno tu arrivi, però tu hai la radio molto più forte. Posso arrivare anche più forte di segnale, guarda un po', meglio va. A voglia, da 2 ci è arrivato a 5, di brutto. È che devo usarlo basso perché sennò disturbo, capito? E non lo uso mai con più di 2,5 watt, da 2,5 watt stavo uscendo. Ma hai sempre quel problema là? C'ho sempre quel problema. Mi hanno avvertito e quindi lo uso basso, entro quando ne ho voglia, se no non c'entro neanche, mi proprio per non disturbare. Non capisco. Invece l'amico sta modulando, si per Sassari. Lui è in periferia però. Avanti Gianfranco. Sono dietro Monteoro praticamente, per quello che non mi senti. Monteoro? Sì, però dietro Monteoro rispetto a Porto Torres, capito? Dietro Monteoro. Ho capito, dietro Monteoro, vai. Vabbè, allora già va bene. Ti sento tipo basso, però vai, già riesci a arrivare. Va bene, signore, io vi saluto, vai, che sto facendo lavoro. Ciao! Ciao, alle prossime. Ok, ciao, buona giornata. Anzi, buona serata oramai. Riprendi Natalia, stavamo dicendo, delle antenne stavamo parlando, che io me le costruivo pure le antenne, i dipoli tutti io me li facevo, anche un'antenna 5 ottavi per VHF avevo fatto e andava bene. Anche per la 27 ne ho fatto, a voglia. Anche io di mia costruzione ne ho almeno 4, no 5, almeno 5 me ne sono costruito io, sia per HF sia per la banda alta. Però come ti ho detto Natali, tutta fatica è inutile, giusto per ubbi, per fare qualcosa, ma poi non c'è tempo. Non c'è assolutamente tempo per usarlo. Adesso che dovrebbe essere poi il periodo proprio per fare le cose, non riesce a fare un tubo. Come finalmente ci ha creduto anche Claudio. Claudio diceva, adesso lui è diventato pigio, capito? Perché ci sono tante cose da fare, non ha chipi mai, capito? È una guerra persa. E infatti per riuscire a fare qualcosa io faccio 3 cose contemporaneamente, no? E quindi cerco di arrangiarmi, però no. follia stancante anche. E infatti Claudio non è più lo stesso, perché giustamente lì dove è andato a abitare c'è sempre qualcosa da fare e non ha il tempo che aveva prima. Prima usciva a lavorare, si riposava, poi accendeva, capito? E c'aveva il suo tempo e tutto. Adesso tempo ne ha ben poco, perché c'è sempre roba da fare lì. In campagna, io già lo so, c'è sempre qualcosa da fare. Purtroppo è così, ma non è solo quello, è anche la manutenzione, non riesci a stare dietro perché ci sono tante cose. Sai, quando ti fai tu, molti chiamano il tizio che magari preferiscono farsi fregare i soldi. Io, siccome tante cose lo so fare, anche progettare, quindi sai, non mi fido molto degli altri, che poi, per carità, ho visto i risultati di certe cose, sono parecchi ciappini in giro, ma per carità del cielo, non ti puoi fidare. Sì, lo so, infatti me ne facevo tutte io, sembravo tarda tra un dipolo e l'altro. Cavolo, tutto io mi facevo lì in campagna, e giustamente poi con tutta l'altra cosa che c'era da fare, lo stesso io stavo sempre facendo in campagna. Purtroppo è così. Ma forse lo sono i dipoli, anzi guarda, i miei dipoli devo dire che sono eccezionali, perché sono quelli che mi rompono le scatole. Sono di lì tranquilli, nonostante siano fatti in maniera abbastanza semplice, sono eccezionalmente resistenti, sono fatti proprio per reggere. Più rogna le danno le verticali, che ogni tanto ne hanno una, anche perché sono più soggette al vento forte, cioè. Ma non è quello il problema, sono tutte le altre cose, gli impianti di irrigazione che ci sono in giro, i cancelli, cioè, qua quando esci non vedi altro che gente che sta mettendo mano ai cancelli perché non sapono, perché si impallano, dovuto proprio al fatto che c'è oramai una dilatazione della paura, soprattutto sulle parti metalliche, e quindi se non è ben in linea il cancello ovviamente si blocca, e lì non c'è niente da fare, purtroppo. Come fa a metterci mano? E quindi bisogna arrangiarsi regolando il motore e tutte quelle cose, no? Un macello. Così Natali, non si finisce mai. Sì, lo stesso il cancello, i motori ne smontavo io, manutenzionari di Brasile in Civi. Di quei dipoli, anche agli amici li facevo e funzionavano bene. Io infatti per fare quei lavori lì, sia in HF sia in UHF, mi sono preso lo strumento che arriva fino a 500 MHz proprio per fare le antenne, e mi dice subito se sta andando bene o sta andando male. Ma deve essere c'è la finestra aperta, ma deve essere stato tornando il caldo di nuovo. Infatti anch'io vedo che c'è la temperatura alta qua, mi sa che sta tornando, sì. Un'altra bella penitenza, perché la notte poi sono dolori. Io sto anche dall'altra parte, così c'è un po' di corrente. E magari ci arriva pure la polmonite, tra una cosa e l'altra. Mamma mia, non parlare di quelle cose. Natali, guarda, io non vado neanche al mare quando c'è gente, perché poi pensano che sia chissà che cosa, tipo Rambo, no? Sono tutto tagliato, io, da una parte, dall'altra, cicatrici a destra, a dietro. Insomma, che poi sembrava tutto ferito dal coltello, dal malattaglio. Allora, questo l'hanno pugnalato parecchie volte, penseranno. Mamma mia. adesso sono mitragliato pure io. E ti dirò con questo, guarda, la mattina qua c'è da mettersi il giubbetto, quando dicevo sono costretto alle 6 spiccioli, ma c'è freddo, poi quando rientro non posso toccare la macchina perché c'è un caldo bestiale, quindi figurati nel corpo umano, poi senti tutti i dolori possibili e immaginabili, delle vecchie ferite, per carità. Oi, che complicato che essere vecchi, da giovane in teoria, ma solo in teoria, non senti molte cose, ma da anziano te le becchi tutte. Perché da giovane facciamo gli sfavalli, capito? Poi ha ragione quello che c'è in televisione, dai 40 in là ti fa male di qui, ti fa male di là. È tipico, infatti. Poi non puoi, guarda, adesso mi è venuta in mente una cosa, pensando a anziani, anche a meno anziani. A volte quando ti siedi poi a mangiare ti viene l'esaurimento nervoso perché accendi questo impianto di televisione e ti danno questa pubblicità, non so se la stai vedendo, quello che c'è le gengive che probabilmente me ne cadono i denti, tutte sanguinate, l'altra che ha problemi sulle parti intime e ne escono pure i tuppi. Cioè, stai vantando una cosa veramente a guardare la televisione, che poi te vanno all'ora di pranzo e quindi ti fanno passare pure appetito. Basta non cucinare più, così almeno risparmiamo pure. Sì, ma io mi ricordo il carosello di quando eravamo giovani. E queste cose facevano anche la pubblicità, non so se te la ricordi, che c'era quell'attore anziano Ambrogio che regola tutto come un orologio, si chiamava, facciamo questi sketch che erano fatti molto bene, e poi dice, diciamo, ma per regolare l'intestino usa la pastiglia Falqui, e finiva lì, ma non è che ti faceva vedere quello che si chiamava la pastiglia subito andava nel gabinetto, ecco. Infatti adesso, prima c'era anche la censura, certe cose non si potevano né dire né far vedere, non solo d'altro, erano fatti bene quegli sketch, non come adesso. Adesso è un macello. C'erano anche grandi attori che le facevano e quindi sicuramente con la mentalità dell'epoca neanche si prestavano a fare quelle cose. Quello lì, no, Tino Scotti, ecco, mi è venuto, te lo ricordi quello con i baffetti, Tino Scotti? No, non me lo ricordo, magari se lo vedo poi già me lo ricordo, ma non me lo ricordo questo Tino Scotti, però già le vedevo le pubblicità, erano completamente diverse da come le fanno vedere adesso. Ma allora il pranzo io lo tengo spento, perché già il telegiornale sembra un bollettino di guerra. E lo puoi dire forte. Ma se no quella che lo stesso che ti prende per deficiente, proprio deficiente totale, no, da ospedale psichiatrico, quella di quei divani, questi qua sono sempre in promozione, sempre in posizione. Che peccato che lo devo lasciare il divano perché lo devo prendere. Ma ti spari un colpo in testa. Purtroppo è così. Caro Natalino, siamo noi troppo vecchi, tra virgolette, sempre, o sono loro che sono veramente idioti, perché se dovessi fare certe pubblicità capirei subito che sto rompendo le scatole ai potenziali clienti. Tant'è vero che a noi si arriva un divano, però di quella marca non ne compriamo, per rappresaglia. Così imparano i divani, gli animali ne vede poco di cose. E se no le telefonate che ti fanno all'ora di pranzo, proprio quando stai mangiando, cavolo, di pubblicità sempre. Cavolo. Adesso mi si è morto quel telefono lì, manco mari. Non stanno, a questo vecchio non stanno telefonando, deve se gli fa schifo. Dipende da quello che ti hanno installato. C'era quello di mia sorella che era tremenda, chiamavano questi, ma tu qua, tu là, tu fai, tu questo. Adesso ha cambiato gestore Iliad, è passata Iliad, e finalmente ha tirato un sospiro di sollievo, non mi stanno più chiamando, nonostante il numero sia lo stesso, capito? Evidentemente gliela bloccano sul nascere. Infatti, è che Iliad qua non prende, ce l'avevo Iliad già fra, però qua mi cadeva la linea, non arrivava il segnale, dovrei averlo vicino al ripetitore, però Nisba, qua dentro non arrivava, ho dovuto rimettere, pagando un casotto di soldi, ho dovuto rimettere la Vodafone, se volevo telefonare. Ma questo quanti anni fa? Sarà un 2 anni fa che ce l'avevo la... Come era uscita subito me l'avevo presa, perché si pagava pochissimo con questa Iliad. Vengo qua e non riceviva più. E ho dovuto, mi sembra, per rientrare nella Vodafone, roba di 40 euro ho dovuto pagare. Te li immagini questi ladri? Guarda, la Vodafone è stata più... tutti invece che puoi trovare, sono veramente banditi. Ed è sbagliato profondamente, perché in quel periodo, io penso che non siano 2 anni, ma siano 3-4 probabilmente, dato che io ce l'ho da tanti anni la Iliad. Io ho fatto tante prove, tante cose, e devo dire che la copertura è aumentata al 100%. Anche il mio collega, no, che non è di Sassari, è di fuori, mi diceva: ma nel mio paese lì a Cossuine non prende. È passato neanche un anno, dice che adesso c'è a fondo scala, è una cosa meravigliosa, è tutto in 4G. Quindi anche come internet è diventato spettacolare, ma io l'ho provata una tutta la 131, e c'è una copertura notevole, l'ho provata su tutta la strada di Nuoro, sull'altra che c'è andando verso Olbia, la copertura è eccellente. Può darsi che magari ci sia stato un problema anche sul tuo telefono, che era sordo. Il telefono non è altro che la radio, ma è una radio duplex, e quindi se è sorda, se c'ha poca sensibilità, non prende, è ovvio. Magari prendevi quello che era fondo scala e basta. No, come uscivo da qua, guarda, c'avevo un segnale Iliad pauroso, come uscivo dal portone, proprio. È proprio qui dentro che non prendeva, roba di qua, l'incavolate che mi son preso. Perché come uscivi dal portone c'avevi la linea tranquilla, non cadeva più. Perché ti devi guardare su che frequenza operava, perché adesso arrivano fino anche ai 2 giga, e quindi è così. Ma io avrei fatto delle altre prove con telefoni più sensibili. Io sono lontano dalla cella, però qua arriva bene anche il 4K, e probabilmente anche il 4K, il 4G e anche il 5G, perché adesso tutti i ripetitori ce li hanno nuovi, poi sono tutti di loro. Prima era la Wind, adesso la Wind l'ha fatta fuori e c'è una copertura formidabile. Sono tutti nuovi, tra l'altro, l'ultima generazione, i punti della Iliad, perché sono già in 5G. Ma devi avere anche il telefono che vada in 5G, questo è vecchio il telefono, perché quello nuovo che avevo non ha più acceso. Sarà partita la batteria, oramai sono tutti con batteria interna. No, non è la batteria, Luca mi ha detto che non è la batteria, non accendi brutto, deve essere la scheda madre. Infatti ha detto che se ne entra qualcuno uguale fa altre prove, è aperto lì, però non l'ha buttato, diciamo, per vedere se se riusciamo a recuperarlo. Perché possono essere tante cose, detto, può essere il display pure crepato e non ti fa vedere nulla, magari il telefono accende. Però non è il display, perché quando io accendevo mi faceva tipo una vibrazione, no? Quando accendeva. Adesso non la faceva più, sicuramente la cosa, la scheda madre. Ma vedremo. Intanto io me lo prenderò nuovo il telefono, perché questo è di quelli vecchi, un Samsung J3. Eh sì, probabilmente è quello che utilizzava Garibaldi all'epoca. No, Natalie, io il telefono non ho mai riparato, perché i telefoni, come le radio, le può riparare solo chi ha apparecchiature, non è a stare lì col cacciavite a fare, a mettere, ammesso che ci riesca, perché sono tutti microcomponenti oramai. E quindi queste riparazioni lasciano il tempo che trovano. Pochi ne sopravvivono di quelli fatti in quel modo, perché sono comunque, non ne controllano la sensibilità, non ne controllano il sistema del wabander e tante cose. Quindi non è a metterci mano così, quando fa quegli scherzi, se vedi perché chiama la batteria, lo prendi e lo dai al coso, al cestino dei rifiuti differenziati. E c'è la Luca, ho detto, mia, lo so cosa ti dico, se non riesci a metterla a posto, vendi i pezzi, qualche pezzo che serve, magari ti tieni su, non ne voglio neanche io, gli ho detto, me lo comprerò nuovo il telefono, adesso lo facciamo andare, questo fishing che va, poi quando non va ce lo pigliamo nuovo. Questo qui meno male che ce l'avevo, se no rimanevo a piedi, me lo dovevo prendere nuovo subito. Oggi ho finito un debito che avevo, gli ho dato gli ultimi soldi ed è pagato a saldo. Così Natali. Beh, tanto ci sono quelli buoni che non costano tanto i telefoni. Questi sono decisamente bassi. Quindi è inutile che t'arrucchi a fare queste riparazioni, lasciamo il tempo che trova. Conviene andare ad occhiarne uno moderno, a un prezzo ragionevole, poi dipende anche da per cosa lo usi, se lo usi per, anche come internet di casa, allora ce ne vogliono un po' più buono, oppure come per fare solo telefonate, e quello ognuno ha la sua esigenza. Io non ci gioco, mia moglie gioca col telefono, io non ci gioco, io lo uso solo per telefonare il telefono. E boh. Per internet già c'è il computer. Infatti così almeno non perdi la vista. Che anche quella posso usare. Questi telefonini se ne va via in fretta, perché sono troppo piccoli come caratteri, e quindi danno una marea di problemi a lungo andare. E la vista è importante, perché è molto fastidioso quando si inizia a essere civili, soprattutto alla nostra età. Infatti, da 40 anni uno non vede più da vicino e si deve mettere gli occhiali da vicino, perché ti viene la presbiopia e non vedi più, capito? Preferisco il computer, io il telefono, io non ne ho mai usato per internet, proprio. Preferisco il computer, c'è lo schermo grande, vedo bene qua, sì. Non c'è confronto. E poi la nostra età ci mette poco a calare la vista, maledetta. Più la ascolti e peggio succede. Quindi io me lo dovuto prendere uno grande, infatti, proprio per diminuire questa cosa da non vedere. Ed è uno 6.5 poi. pollici, credo, una cosa del genere. E il mio grande lo stesso, il monitor del computer, dice cosa minoreta, che io il telefono lo uso, anzi è troppo grande pure questo, figurati, questo Samsung. Adesso li stanno facendo tipo cabine telefoniche, questi telefoni. Prima erano piccoli piccoli, adesso mi... la scusa di internet, mia moglie c'ha il tablet, si mette a giocare, io non ci gioco, male sono, io lo uso solo per ricevere e fare telefonate, basta. Sì, quindi ti conviene, ma per quello, sì, per quello c'era quella promozione di Nvidia, adesso c'è ancora 4 euro e qualcosa, credo. Telefonate gratuite, sms gratuiti, eccetera. Per quello, quello poteva bene allora. Sì, me la prenderò una Iliad e vedo se prende qua. Perché se prende qua mi lascio l'Iliad. Poi quello nuovo che avevo, c'aveva due slot per la scheda, quindi potevo usare due sim, capito? Me lo prenderò, torna così, con due sim, e così metto sia la Vodafone che la Iliad, così dove non prende la Iliad già prende la Vodafone. Io invece ho dei telefoni a parecchi e ne ho, guarda, solo qua ce ne sono tre. Di cui uno non è mio ovviamente perché è di servizio, una boiata pazzesca anche quella, un Samsung, ma per carità. Poi infatti lo sto caricando perché domani poi mi serve, se no io uso telefoni più, come dire, con prestazioni un pochettino più serie. Anche se lo uso quello di solo per telefonare, comunque a volte è proprio un micro bidone. Sì, certo, non ti possono dare l'ultimo ritrovato per la tecnica con il telefono di servizio. No, fortunatamente mi dirai che è piccolo, perché mi devo portare appresso il mio che è grande, quello lì che è un po' più piccolo, quindi si può immaginare cosa è. Io mi ricordo una volta che c'era venuto qua una certa persona, no? E allora ci avevamo i cosi lì, ti ricordi sicuramente, il Star-Trek, la Motorola, eccetera, e c'era il tizio dietro, no? Si doveva essere sempre in contatto ininterrotto con Roma, questi qua erano sempre attaccati al telefono, l'assistente, e c'era una borsa, no? Tipo quelle, non dico della spesa, proprio le impelle, tutta piena di batterie, perché ogni tanto prendeva una a caricare e l'altra roba di 5-6 batterie per un telefono, una cosa assurda, ma era ininterrottamente con Roma. E vabbè, purtroppo quando ci sono quelle esigenze, poi quei telefoni consumavano di brutto. Sì, allora non c'erano quelle lì, c'erano anche cavi a quelle. Infatti, ce l'ho avuto lo StarTAC, il MicroTAC, il 7008, già ne ho avuto pochi di quei telefoni di Motorola. Sono diventati un mito, lo sai. Hanno fatto storia, li trovi anche nei musei. Ne ho avuto telefoni, cavolo. E ti ricordi noi quanto eravamo felici con la nostra scanner? Sì, adesso tutto criptato, tutto nascosto, frequente in routing continuo. Avevo quello taxi, io il micro taxi, mi sembra che fosse tax, così è tax. Sì, però erano analogici ancora. C'era un sistema di roaming in una casa. doveva compensare. E si sentiva tutto e non era certo da roba segreta. Sì, infatti già lo so io. Ti ascoltavano, sì. Se avessimo avuto le apparecchiature di adesso, a quell'epoca, ci sarebbe stato da rimanere attaccati giù nel notte alla radio. Sì, infatti, prima io li ascoltavo, guarda, con quei ricevitorini, ce ne avevo anche di quelli portatili ricevituri, e ascoltavi tutto, lo scrivevo. Io dico che se ce l'avessero avuto anche le mogli dei ricevitorini, guai, quanti matrimoni sono stati. Quello è poco ma sicuro. Ui, ui, ui. Certe scene, guarda, allucinanti. È così. Io sennò quando sentivi robe scabrose mi... Carissimo, passa di là, e si infinì a tutto. Uno addirittura non aveva schiacciato bene Gianfra per spegnere la telefonata e abbiamo sentito tutto il proseguo. Infatti sì, c'era anche quel problema, dovevi stare enormemente attento a quelle cose perché poi era... a parte il costo era enorme, si ci mangiava, poi si sentiva rosicchiare dei soldi nella telefonata. Quindi succedeva di tutto di più. E il costo era esorbitante, il mio era la bolletta per esempio. Beh, all'epoca anche il mio era la stessa bolletta, non era a credito, ma poi una telefonata, che dolori. C'era ancora la lira. E infatti io quando ce l'ho avuto proprio quando è appena uscito, era un NEC, una cabina telefonica, era ETAX, ed era bolletta quello, me lo ricordo ancora. L'avevo preso lì in via Prunizzella, c'era un negozio di telefoni lì. Da scarpa, era lui quello che vendeva, proprio quelli, no? Anche l'avevo preso lì. Quello, il microtac che c'avevo anche il viva voce nella Giulietta, era bellissimo, avevo pagato un casotto di soldi, mamma mia, ti bruciavo. Infatti, altri tempi. E me l'avevo pensato, proprio scarpa il kit viva voce nella Giulietta, c'aveva l'antenna fuori dalla macchina, chi su quello prendeva? Era in una caifa, già lo so, c'avevo anch'io il viva voce in macchina, stava un patrimonio, e come si sentiva forte, perché era proprio, insomma, una cosa formidabile, l'avevo piattato io però, perché c'era tutto il corpo lì del telefono, si metteva con lo sportellino aperto, mi ricordo, e poi tenevi il tasto, boh, basta, e facevi la telefonata a parlarvi, poi lo ripremevi per chiuderlo. Infatti, era il suo proprio originale, avevo comprato tutto, e avevo pagato un sacco di soldi, mi ricordo. E all'epoca era un grande lusso, era proprio una cosa cara veramente. E ce l'aveva uguale un mio cliente, quello lì, che era il padrone del bar di Città Mercato, quello era sempre armato lo stesso. Sì. E poi hanno iniziato a suonare tanti. Guarda, il bello che avevano, la cosa veramente bella che c'era è che erano tutti i telefoni con l'antennino. E nel caso poi che c'era la voce, veniva automaticamente collegato anche all'antenna, perché c'era tutti quei cose tipo radio portatili VHF VHF. E quindi era molto funzionale. E infatti io avevo l'antennino fuori del telefono, piccolo, nella Giulietta ce l'avevo col telefono. Poi mi è caduto, mi ricordo, sono entrato in porto e mi è caduto nel gavone dove c'era l'acqua. Certo, quello lì si è messo l'imbecille con la pistola, quella d'aria calda, che sono per svenire, quelle che usano per togliere la vernice. Certo, mi ha fatto proprio dare fuoco. Magari se si lasciava asciugare tornava a funzionare. Sì, magari. Io l'ho perso nell'acqua, proprio, mi è caduto in acqua nel porto che stavo pescando, ce l'avevo nel taschino del giubbottino, mi sono inchinata per brutto il telefono nuovo, il 3330 della Nokia, me lo ricordo ancora, bianco era, cavo, un telefono nuovo, brum, in acqua, 30 metri d'acqua. È un po' difficile venire a recuperarlo. Sì, infatti. A volte si stava meglio quando si stava peggio, Natalia. Poi sarà un vizio che hanno gli anziani, però è come quando si dice che la terra è bassa, no? Così così. Gli anziani quando avevamo visto che tanto è bassa la terra e noi ci siamo esagerati. Invece adesso diciamo anche noi. Beh, è abbastanza a terra. Infatti te li ricordi quegli uomini quelli che zappavano, quelli erano tutti ricordi dalla zappa proprio, poveracci. Che chiama? Quella era una vera e propria patologia che ci aveva. Quante volte li ho visti. Perché cambiare adesso se ti fidi. Anche noi siamo in quelle condizioni. Aspetta che c'è stata una chiamata. Avanti che chiama Natalino. Sì, ben entrato Nico. Buonasera anche a te. In compagnia di Gianfranco qua. Gianfranco, lo senti a Lupo Grigio? No, purtroppo no. Ciao Nicola, se mi ascolti, ben ascoltato. Presumo che sia a casa perché adesso tolgo lo squelce per ascoltarti. Vediamo un po' se riesco a sentire qualcosa. Riprendi Nicola. Eia, ha detto Nicola a salutarti, ti saluta Nicola Gianfra, che ti sente a livello QRM, evidentemente o non è a casa ed è in macchina, magari non lo so. Dove sei Nico? A casa. Vabbè, chiama dopo, dai, quando cambi l'antenna. Già è a casa Gianfra, solo che chissà che antenna sta usando. Infatti ho tolto lo squelch, ma neanche se zero, nonostante abbiamo eccellente sensibilità, ma non troppo basso, poi a queste frequenze figurati. Non si può fare neanche quel minimo di potenza, ci vuole, ma neanche tanta potenza, ci vuole un'antenna, semplicemente, perché tu lo sai benissimo che usando anche gommini, antenne caricate, eccetera, c'è una perdita veramente grande su questa frequenza. Lo so, io lo sento perché vicino a me abita nei paesi là, diciamo, ed è per quello che lo sento. Sarà usando il portatile sicuramente. Io sapevo che abita in via Principe Yolanda, lì. Era nel posto proprio. E io lo sento, però magari se sta usando il portatile tu non lo senti. Per quello. E cosa vuoi? $100 per l'antenna, $1 per l'apparato. Se non hai antenna è come che apparato non ne hai. In quel caso lì è come uscire un carico fittizio. Può fare ben poco. Perché per avere un minimo di rendimento qua l'antenna vuole della lunghezza giusta, è inutile che ci facciano i portatili con la carichetta, con quella cosa lì, ma è già messo male dall'inizio. Sì, infatti ha richiamato, dimmi Nico, cambia l'antenna e vediamo come mi arrivi. Adesso mi sta arrivando 9 qua. E con questa sta arrivando più forte. E vabbè, ma non rendono. Sì, col portatile non rendono in lontananza. Gianfranco è in pericolo. periferia e non ti sente. Adesso non so se ti sente con questa antenna. Gianfranco, lo senti? Ah, io lo sento, cioè lo sento relativamente, sento che parla, ma incomprensibile è S0 praticamente, perché non c'è QRM, ma basterebbe S1 di QRM per non farmelo più ascoltare. Tieni presente che io ho tutta Sassari in linea ottica, ma lui, essendo anche a un piano molto basso, è ultra coperto dai palazzi e da quant'altro, perché risulta nel versante opposto alla parte dove sono io, in parole povere, perché è coperto tutto da tutto il palazzo. Lui, se mette anche un antennino, anche il più scadente del mondo, su dove c'è il tetto, io lo vedo, probabilmente lo vedo anche se si mette con una lampadina accesa, però essendo così in basso, essendo poi in quella situazione che c'è a palazzi davanti e dietro, è veramente una cosa molto molto molto difficile. Purtroppo è lui che non ne vuole piazzare l'antenna sul tetto, non ne vuole piazzare sul tetto, se no a quest'ora. E lui lavorava nei carabinieri, alle trasmissioni proprio. Hola chicos, brecco. Registra tanto. Lo so, sì, lo so, non so che era lì. Però di lì le frequenze erano sotto ripetitore, era tutto più facile, capito? E quindi così invece è tutto più complicato. C'è Antonio che è entrato, facciamo quelli avanti, Gianfranco con Natalino e con Nicola Lupo Grigio, probabilmente importabile. Avanti Antonio. Capo, buonasera a tutti, buonasera. Allora, state parlando ancora di questi problemi? State parlando. Mamma mia, non me ne dire a me che è papabbo, se no io ho la premessa sul tetto, come? Io voglio la libertà, voglio. All'epoca, adesso già ce l'ho sul tetto. Sono contento, all'epoca non si poteva mettere. E purtroppo lo sai com'è. Io per esempio sono limitato qua, perché purtroppo già lo sai, e sto tornando in quelle condizioni. Ascolta Natali, fregatene, chi vuole venire venga, dici cittadini da mezzo. Dice vabbè, poi dopo c'è l'antenna, poi ne riparliamo. Alla fine cosa devo fare? Uno se ne frega. È molto prepotente, mandami chi vuoi, vai. Ciao. E io che non sei mai attaccato nessuno. L'altro giorno ho mandato anche un messaggio che il primo che vedo attaccato qua su al tetto lo butto giù. Figurati. E addirittura mi ha fermato una signora qua, no, che è amica di mia moglie. Se gli potevo controllare l'antenna perché non vedeva la televisione. Lo sai come gli avevano attaccato lo spinotto? Senza la massa. C'era solo il filo positivo attaccato. Ho preso la forbice, gli ho rifatto il coso nuovo e subito si è vista la televisione. Non sapeva come ringraziarlo. La patacca passa un razzo sicuramente. Che cosa ne so? Poi si lamentano che prendono disturbi e cose. Lasciamo perdere. Avanti Gianfra. Quelli sono quei ciappini che fanno a fare lavoro, non sanno cosa stanno facendo neanche. Quello è il sistema migliore di togliere dalla massa, di avercela cattiva per portare dentro tutti i disturbi possibili e immaginabili. Io mi ricordo che una volta, quando trasmettevano i carabinieri lì a Residu, sui palazzi di fronte, avevamo messo un articolo sul giornale, i carabinieri disturbavano con le loro potente stazione qua e là, qua e là. E poi i carabinieri hanno pure denunciato una volta che hanno fatto gli accertamenti per ascolto abusivo di comunicazioni riservate. Deve essere anche quelli erano tutti senza mazza e con impianto fatto così. Infatti deve essere, erano tutti così a ascoltare a loro, ma dimmi tu, ma chi vi danno subito denunciati? Dimmi tu l'ascolto abusivo. Bisogna stare attenti con certe cose, bisogna stare molto attenti di ciò che si dice e di ciò che si fa. Perché chi si non sono addere mani, no? Vabbè, ti sto disturbando, chiamano il tecnico, che loro ce l'hanno poi, l'assistenza tecnica, fa misurare tutto, le fanno tutti i controlli e poi chi ci piange anche. Ma vi posso salutare, ma solo per un saluto mio buon, poi me ne sto andando, ciao. Buonasera qua. Ciao, buonasera a tutti, Natalino, Gianfranco e a te, dai. Era solo per un saluto però, Niente di che, ciao, ciao a tutti, buon proseguo, buona serata, buon tutto, eccetera, eccetera. Ciao Claudio, ma ti stavano fischiando le orecchie, o c'era qualcuno che ti ha telefonato e ha detto guarda che stavano parlando di te, perché ti abbiamo nominato, sempre in maniera buona, non in maniera cattiva, per il lavoro in campagna. A prendere roba con istanza, ho acceso, ho sentito voi, perché era tutto spento, fa verità. E allora sono entrato doverosamente a salutarvi e vi lascio il vostro QSO, buona serata, buon tutto e ci sentiamo al prossimo. Ciao Antonio, riprendi. Capa, ciao Cla. Ci sentiamo. Antonio ride perché sappiamo una cosa. Dare lì, vecchia, santo. Dare lì, vessuro, dare lì. Natalino Perivella. Sì, già vengo con la moletta e ti taglio la Perivella della moto. Vabbè, già c'è il motorino di avviamento. Capito mi hai? Oi. È proprio vero, caduta la torre, caduto l'operatore, a Cabatera, non ne ho più voglia Gianfranco, me la fotti più nuda, io se mi sento entro a salutarvi, ma non fare radio come facevo prima, non mi interessa più, capito, anche se in bocca di qualcuno c'è sempre il mio nome, ma poco me la fotti, a me da un orecchio mio, tra l'altro mi esce, viura di due, non ci sono preoccupato. Dai ragazzi, vi saluto, baci e abbracci a tutti, ciao! Quindi mi hai fatto capire che praticamente certi elementi perseverano dalla scelta che ha fatto anche Antonio involontariamente, quindi ho messo di nuovo il dito nella piaga. Vabbè, come non detto, sì, anch'io non sto più entrando, giusto, perché ho sentito la chiamata di Natalino e ci siamo fatti una piccola chiacchierata. Purtroppo è così, c'era meglio, no? Il chiacchiericcio, come dice il Papa, è sempre presente. Riprendi Antu. Capa, lo sai, io lo dico